Signor Rino, buongiorno. Sono venuto a portare il tapiro. Sei venuto fino a Napoli? Eh sì. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Hanno confezionato uno scambio che già nelle prossime ore dovrebbe essere concluso, ovvero Politano alla Roma dopo l'infortunio di Zaniolo e Spinazzola all'Inter. Rugani non, no, in questo momento lo escluderei. Dobbiamo aspettare cosa succede con Chiellini. Rugani è un giocatore molto importante. Alcune volte penso che non essendo troppo fashion, non andando troppo sulle prime pagine dei giornali di gossip, non avendo i tatuaggi e parlando poco, sia sottovalutato. Il Barcellona ha comunicato poco fa a Valverde che non sarà più l'allenatore del Barcellona. Quique Setién sarà invece il nuovo allenatore che si siederà sulla panchina del Barcellona. Questo cambio al Barcellona che avrà dei riflessi sul mercato anche per l'Inter. Vidal per esempio. Perché l'allenatore Valverde non utilizzava Vidal e Vidal ce l'aveva con Valverde, non con il Barcellona o con i suoi compagni. If you ask me if I think this is the best Christian Eriksen, I have to be honest and say no, I'm not an idiot. I'm in football for many years and I know clearly that a player in this situation doesn't perform at the highest level. E mentre aspettiamo Pierluigi Pardo per dare fisicità al programma, dovrebbe comparire tra poco. C'è Claudia Schiattone ovviamente, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Un sacco di temi riassunti in questa intro che dà bene l'idea del casino attuale, perché ci sono messi anche gli ospedali e gli infortuni a complicare gennaio, a complicare il mercato, a complicare gli intrecci, mentre gli interisti già sentono il rumore non dei nemici ma di Conte che frigge per avere i giocatori che ancora non arrivano, e c'è Barcellona che ha cambiato allenatore, altra situazione abbastanza paradossale, poi ne parliamo. Anche la Roma e la Juve pensano. 349-238-6666, WhatsApp vocali. Io saluto e ringrazio Guido Vacciago di Tutto Sport. Ciao Guido. Ciao, buongiorno a tutti. Il mio amico Roberto Renga. Ciao Roby. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao Guido. Ciao. Ciao Roberto. Allora, Rugani non gira e rigira. Resta il solito Rugani che non va sui giornali, che non è protagonista dei gossip, non ha tatuaggi, però non va neanche molto in campo e fa parte del mobilio della panchina bianconera ormai da anni. Guido, è lui la soluzione? Bel tentativo da parte di Paratici di rilanciare Rugani. No, vabbè, nel senso che la carta del bravo ragazzo, in realtà Rugani non è fashion non perché non va sui giornali di gossip o perché non ha i tatuaggi, non è fashion perché è da 4 anni che è alla Juve e non è riuscito a conquistarsi il posto da titolare in nessuna situazione. Ma nemmeno secondo quello da prima riserva, a dire la verità. Esatto, esatto. Secondo me è un ottimo difensore, non è un difensore da... che ha le qualità per giocare titolare inamovibile nella Juve. Dopodiché poi nelle squadre, anche nelle grandi squadre, un Rugani ci può stare. Rugani è un difensore secondo me molto ordinato, con una lettura difensiva superiore a quella anche di alcuni suoi compagni di reparto come Demiral. Manca forse di quella cattiveria di cui invece il suo collega turco abbonda. Manca di quella determinazione che richiede quel ruolo, soprattutto quando vesti la maglia della Juventus. Detto ciò, mi sembra che nonostante l'infortunio di Demiral sia una brutta tegola per Sarri, ritrovarsi con Rugani come tutto sommato alternativa e ritrovarsi con Bonucci, De Ligt e il recuperando Chiellini sia una situazione tutto sommato normale, buona, accettabile, anche perché poi se voi ne parliamo c'è Emre Can che può fare il centrale. Sì, ma Emre Can dovrebbe andare via, però, perché siamo sempre lì, siamo a Rugani che anche questo è un'eccezione, lo sa anche Roberto Renga benissimo. cioè alla Juventus ti danno un anno e va bene, un'altra mezza stagione e va bene, magari arrivi alla fine della seconda, però se non rendi poi vai. Per Rugani sarà che è un bravo ragazzo, che non pianta casini eccetera, però è stata fatta una sorta di eccezione. Emre Can, da sempre lo mettono fuori dalla lista UEFA, non lo vogliono più, lo mettono ai margini del progetto come Mandzukic, in panchina se non in tribuna, e adesso però può tornare buono, allora vieni qui che abbiamo bisogno. Era successo così con Lichtsteiner, l'anno in cui poi la Juventus aveva raggiunto la finale di Cardiff, fuori dalla lista UEFA nella prima parte, dentro la lista UEFA nella seconda. Secondo me Emre Can è un giocatore che, rimesso nella lista UEFA, potrebbe ritrovare un minimo di motivazione. Io credo fermamente che se dovesse arrivare un'offerta vera per Emre Can non esiterebbero a cederlo, però qualche dubbio a Paratici, a Sarri, è venuto, perché non sono del tutto convinti del recupero di Khedira, ma più che altro non sono del tutto convinti di tenersi sia Khedira che Ramsey, che sono due centrocampisti dall'infortunio facile, tutte e due in lista, perché poi la contemporaneità dei due, dell'indisponibilità dei due, non è altamente probabile, ma è più che possibile, e di conseguenza accorcerebbe un po' il centrocampo. Ecco perché io vedo un reinserimento in lista di Emre Can per la seconda parte della Champions League, anche perché questa opportunità di fare il doppio ruolo lo rende più prezioso. Lui lo rende piuttosto utile. No, sì, ma tra l'altro è un gran bel giocatore. La tua impressione sul tema, Roberto, qual è? Ma intanto che Rugani sia un giocatore, sì, ma soprattutto un collegiale. Secondo me paga questo fatto di essere biondo, carino, molto elegante, perché adesso invece piacciono i Demiral, no? Giocatori così, che tra l'altro andava benissimo, gli facciamo tanti auguri. Io, Rugani però ormai è messo da una parte. Io mi ricordo che qui a Roma nessuno lo voleva quando la Juventus proponeva lo scambio per Riccardi, no? Il talentino della primavera, che veramente promette di diventare anche molto bravo. Però qui è tutti quanti, ma no, dai, ma ti pare, ma proprio Rugani. Ecco, ormai è questa la sua situazione. Beh, ma è un panchinaro fisso, è un caso. Può giocare anche stopper, no? Sì, sì. Decido che però ha dei problemi fisici pure lui. Anche lui, sì. Quindi, insomma, sono un po' corti in effetti da quelle parti. Però Rugani rimane comunque un caso strano, così come quello di cui si diceva di Emre Can, che insomma alla fine non gli hanno detto in mille modi che doveva andarsene, una soluzione non si è ancora trovata, adesso potrebbero richiamarlo alle armi. Anche questa è una situazione abbastanza curiosa. Senti, invece, quanto alla Roma, quel quarto posto serve per mille motivi, compreso come asset da mettere nel pacchetto della nuova proprietà. Alle sfighe Fonseca è piuttosto abituato, ma Zaniolo è tanta roba. Zaniolo è un grosso problema, soprattutto per lui, intendiamoci, anche se a 20 anni avrà tutto per recuperare. È un problema anche per la Roma, e quindi la Roma adesso sta cercando un sostituto. Ma bisogna sempre cercare di decifrare bene la situazione, perché a livello numerico la Roma non ha bisogno di giocatori, perché comunque in avanti c'è Anders, Kluivert e Perotti che possono giocare sulle fasce. Ci può giocare benissimo, secondo me, Florenzi, che sarebbe il ruolo suo. Però nel qualora Florenzi dovesse giocare avanti, ci sarebbe bisogno di un difensore, perché la Roma, in questo caso Fonseca, non si fida di Spinazzola o di Santon. E per cui numericamente ci sarebbe, ma bisognerebbe semmai comprare un terzino. Poi però c'è quest'altra opportunità che piace all'Inter, ma piace soprattutto alla Roma, immagino, cioè lo scambio con Politano. Politano è un signor giocatore, può promettere e garantire più o meno gli stessi gol di Zaniolo, cioè 6-7 l'anno, 5, qualcosa del genere. Il fatto è che il problema della Roma è che non segna. Se non segna Zecco non si sa chi possa fare gol. In realtà alla Roma servirebbe un attaccante, un esterno che faccia i gol. Però ormai è andata così. Dico, se comunque va via Spinazzola, che alla Roma ormai fa la riserva, e c'è bisogno comunque che la Roma compri un altro terzino. Le cose sono abbastanza complicate, ma si potrebbero anche risolvere senza fare niente, attenzione, perché un altro Zaniolo non lo trovi, a meno che ce n'è uno solo in giro. E qui chiede a Guido Bernardeschi, ma Bernardeschi la Juventus lo lascerebbe? Non lo so, chiedo a Pardo che è appena arrivato. Ciao Pierluigi. Abbiamo problemi di ascensore, ufficialmente. Però senti, non c'è grande fiatone. Zaniolo, di Zanioli ce ne sono pochi. Insomma, Bernardeschi ha altre caratteristiche, non lo so. Non però, lo so. Però, sai, potrebbe giocare bene lì, fare anche i gol. Sì, sì. Io ci proverei fossi. Cioè, Bernardeschi, secondo me, negli ultimi anni ha un po' cambiato, secondo me, anche proprio struttura, no? Tipo di muscolatura, quindi diventa un giocatore più potente rispetto a qualche anno fa, forse con meno imprevedibilità e meno leggerezza, un pochino meno esplosivo e leggero sul pallone, però è sicuramente un centrocampista che può fare, centrocampista offensivo, e può fare cose importanti. Sì, e invece si diceva anche con Guido Vacciago, Piar, del caso strano di Rugani, che sì, vi sentivo. Fa soprano mobile da panchina, cioè curioso, no? Da 4 anni. Adesso che succede? Ne avete già parlato, che succede adesso con i fortuni di Miranda? Sì, che vanno con Rugani aspettando che Chiellini guarisca, che richiamano alle armi Emre Can dicendogli l'occorrenza vai tu a fare il difensore centrale. Beh, c'è De Ligt. Infatti secondo me il dramma di Rugani è che in questo momento ha scalato solo una posizione, ma è lungi dall'essere titolare, perché adesso i titolari nelle partite che contano, fino a che non torna Chiellini, saranno Bonucci e De Ligt. Rugani sarà la prima alternativa. Quando recupererà Chiellini, mi dicono fine febbraio potrebbe iniziare a giocare i primi minuti nelle parti finali delle partite, per essere pronto da titolare a metà marzo. Da quando recupererà Chiellini, a quel punto i titolari saranno Lucio Chiellini o Chiellini e De Ligt, insomma, a seconda di quello che Sarri deciderà, e Rugani continuerà a essere a quel punto la terza, la quarta alternativa per il ruolo. Sì, io credo che quello ha solo scalato una posizione. Esatto, quello che può cambiare, immagino, sia il fatto che magari in una condizione fino a quella di domenica sera, quindi da quarto in questo momento, probabilmente si poteva anche pensare che andasse a giocare in prestito, che la Juve potesse provare a monetizzare. Adesso credo che sia necessario tenerlo alla base, perché è la prima alternativa. Può essere anche un'occasione per De Ligt. Io credo che, insomma, su De Ligt la situazione sia molto chiara, cioè è arrivato con delle aspettative, con un prezzo e con un ingaggio enorme, e quindi grandi aspettative. Ad oggi queste aspettative non sono state confermate. Non è un'invenzione mediatica il fatto che Demiral avesse scavalcato nelle gerarchie De Ligt, è un dato di fatto, quindi questo è l'oggettivo. Però io sono convinto che il talento ci sia, e questa può diventare anche un'occasione, secondo me, paradossalmente, per lui, per la seconda che faccia delle macumbe, perché prima si fa male Chiellini, allora titolare De Ligt, poi cresce Demiral, gioca Demiral, Chiellini rimane più forte di tutti, questo possiamo dire con rispetto per tutti gli altri. Allora facciamo così, rapidissimo break, Guido e Roberto state con noi, torniamo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Direttore, è preoccupato di questi rumors intorno all'Inter? Sembra che, insomma, arrivi un grande nome a centrocampo. È preoccupato e mette pressione alla Juventus in chiave corsa scudetto questo rumors? E l'Inter ha già comprato molti giocatori quest'estate di grande livello: Lukaku, Barella, Sensi e via dicendo, Sanchez. Quindi, se ne arrivassero altri, non sarebbe una sorpresa. Buongiorno, sento parlare di allarme in difesa della Juve e puntano ancora su Chiellini. L'anno prossimo Chiellini sarà ancora titolare. Non sarebbe meglio a gennaio cercare uno e buttargli lì dei soldi e portarselo a casa? WhatsApp vocali 349-238-6666. Pierluigi Pardo è qui con me, reduce dai trionfi tichitateschi di ieri sera. Va bene. È bellissimo, grazie, perché poi cambiano i giorni, cambiano i canali, e poi sono canali straordinari, perché insomma canale 5 Italia 1 sono due canali straordinari, quindi sono anche due luoghi dove è facile fare buoni ascolti. Però grazie alle persone che continuano a seguirci negli anni nonostante tanti cambiamenti, quindi benissimo così. Sì, ti ho visto anche, ho messo la sveglia, ti ho visto. C'era anche Cruciani, eh? Sì. Cruciani è abbastanza agguerrito. Cruciani è sempre agguerrito. Sì, ma è abbastanza, cioè, vivo senza essere inutilmente polemico. Forse il Natale gli avrà fatto bene, non lo so. Non lo so. Roberto, Cruciani senza essere inutilmente polemico, agguerrito, ma bellissimo. Senza essere inutilmente polemico, cioè, è stato stupendo. Lo rende inutile, cioè, praticamente per la società. Pensavo a tutti i giovani che stavano seguendo Pierluigi la sera, perché è quello il grande successo, i giovani. Vabbè, ieri abbiamo fatto il 16.5 fra i giovani, adesso ultimo dato che do, quindi vabbè, l'ho buttato là, un passant. No, devo dirti una cosa, guarda, però chioso in 30 secondi, che, cioè quello che c'è di bello di Tiki Taka è la scena dopo, perché poi nella scena dopo vengono sentilo. A parte che abbiamo, no, ma è la verità, nel senso che vengono sempre quando facevamo trasmissioni sempre le scene dopo, è questa cosa qui, e certo. Secondo me è un po' il clima che si respira a Tiki Taka, che è comunque un programma nel quale ci sono gli interisti e gli juventini, si guarda anche il VAR, perché insomma ci tocca, io poi non sono uno degli, lo sai, non sono un appassionato del VAR, anzi da telecronista lo guardo, il sogno di qualsiasi telecronista italiano, chi le traccaressa, chi vi pare, è la partita senza episodi, che si concentra unicamente sui gesti tecnici senza rotture di scatole, però insomma alla fine c'è sempre una risata che, no? Che chiude tutto, chiosa tutto, e questo penso che poi sia lo spirito del gioco. Oh, pensa che ieri ho visto Dan Peterson per altre cose, e mi ha detto: oh, Pierluigi Pardo è miglior telecronista italiano. E questo? Dan Peterson. Davvero? Sì, te lo giuro. Ma questo dopo Pizzul. Dopo Pizzul è il miglior telecronista di calcio. Per me è numero uno. Qui a chat. Grazie, coach, grazie. 800 24 00 24, se volete venire a cazzeggiare insieme a noi. Guido Vaciago, Inter. Allora, mi piaceva quello che di prima, l'ascoltatore che diceva buttiamo i due soldi e prendiamo un difensore. Mi sembrava no, è davvero, perché poi molti tifosi pensano che sia più o meno così, no? Io credo che la Juventus non andrà sul mercato per comprare un difensore, anche se l'osservazione dell'ascoltatore prima del buttare lì i soldi era giusta. Chiellini l'anno prossimo non sarà titolare della Juventus, ma è per questo che la Juventus ha comprato Demiral e De Ligt, investendo complessivamente quasi 100 milioni. Credo che l'anno prossimo Chiellini faccia da chioccia a Demiral e De Ligt, Bonucci continuerà a essere titolare, e vediamo chi sarà di complemento al reparto, perché appunto io credo che poi alla fine Rugani smetta di fare il soprammobile in panchina, che poi a giugno troverà un'altra destinazione, chissà, magari dopo essersi guadagnato una rivalutazione importante in questi mesi. Allora, questo sarà lui. Allora, domanda che faccio a tutti: secondo voi quanti giorni Conte resiste ancora prima di esplodere se non gli prendono un giocatore, Pian? E dipende dal risultato. se lui secondo me, pareggia, no, ma secondo me non arriva alla prossima partita. È agghiacciante, cioè... quello che hai detto, è agghiacciante. No, ma secondo me lui sta facendo Antonio Conte, essere Antonio Conte. E quindi fa. Okay. Ha ragione, sì. Il suo bello. Non voglio evadere la domanda. Io penso che si stiano muovendo, cioè a me sembra che l'Inter stia facendo le cose, poi non credo che non arriverà nulla in tutto questo bailam, come si diceva una volta. E se la giocherà fino alla fine, poi chi vivrà vedrà, però insomma mi sembra tutto secondo copione. Spinazzola gli risolve qualcosa? Spinazzola, quell'ipotesi di scambio, adesso io non ho le ultimissime dell'ultima ora. L'ipotesi di scambio con Politano, dicono che sia la roba più vicina alla conclusione. Sì, perché Politano onestamente sembra un po' fuori dai radar dell'Inter, e invece alla Roma, soprattutto con l'infortunio di Zaniolo, un giocatore che può essere molto utile. Spinazzola sicuramente gli dà un'alternativa in più sugli esterni, che è una delle aree che deve migliorare, assieme secondo me al tema fondamentale di un centrocampista, cioè la priorità numero uno secondo me è il centrocampista centrale, poi c'è l'esterno, e poi c'è il cambio davanti, l'alternativa davanti a quei due poveri fenomeni che insomma prima o poi si potrebbero anche sentire vagamente stanchi. Sì, no, Guido, tu hai qualche notizia sull'Inter, aggiungendo quel clamoroso casino del Barcellona, che noi guardiamo anche un po', almeno io personalmente con un po', perché sono cattivo dentro, con un certo godimento perverso, perché anche i ricchi, se non piangono, almeno piantano qualche, stanno piangendo a Barcellona, però un po' di putiferio quasi sul nulla l'hanno creato. Sì, o meglio, lì c'è tutta la differenza tra noi e loro. Noi siamo abituati a vedere i cambi di allenatore molto più frequenti, però per una questione di risultati lì c'è una questione di filosofia di gioco, e poi alla fine Valverde viene fatto fuori perché non piace il modo con cui gioca il Barcellona. Te ne accorgi il 13 di gennaio? così. No, no, è lunga come... Ma perché poi loro lì c'è stato un braccio di ferro, secondo me, tra la piazza, tra l'opinione pubblica e la dirigenza, che voleva in qualche modo vincere questa battaglia, e poi si è sostanzialmente arresa. Poi bisogna capire cosa si è rotto tra Valverde e lo spogliatoio. Però ecco, questo dal nostro punto di vista, al di là della tua considerazione che condivido, credo che abbia delle conseguenze effettivamente sul mercato, perché Vidal potrebbe complicarsi. E però complicarsi ciò, anche lì, cioè, esatto. A Valverde, che era uno che non faceva il tiki taka, che non era abbastanza offensivo per i loro gusti, insomma, era in rotta con Vidal. Adesso arriva un allenatore che invece è un seguace della religione guardioliana, e insomma Vidal dovrebbe perdere altre posizioni, oppure portato dal procuratore di Boateng e consigliato da Cassano alla Samp in estate. Queste sono le altre cose che vai Pier. No, io credo che il problema vero sia proprio di tempistica, nel senso che ci vorrà qualche giorno. Bisogna capire la fretta dell'Inter, perché è chiaro che il Barcellona adesso si insedia il nuovo allenatore, faranno due riunioni, tre valutazioni. È abbastanza impensabile, secondo me, che il Barcellona si privi con facilità di un giocatore che sta facendo bene e che soprattutto è uno di quei giocatori che, e questo vale per i giochisti, per i risultatisti, per i guardiolisti, per i catenacciari, Vidal è uno che alla fine serve a tutti, perché pure ai puristi del tiki-taka guardioliano, secondo me Vidal è comunque un giocatore che serve, così come in quel Barcellona lì serviva Busquets, che era un giocatore di ordine del quale si parla pochissimo, che era sicuramente quello meno brillante fra Iniesta e Xavi, però serviva anche lui. Quindi, insomma, francamente, secondo me l'Inter non è fortunatissima da questo punto di vista, perché ha beccato il Barcellona in un momento di crisi di nervi, come direbbe il maestro Almodovar, no? Sì. E quindi secondo me questo non aiuta. Poi però magari invece decidono di voler proseguire su un'altra strada e magari fra 5 giorni, 10 giorni danno il via libera alla partenza. Però il timing, la tempistica non è delle migliori. Roberto Renga? Ma no, io ho guardato Vidal attentamente in occasione della partita, quella terribile, quella definitiva per Valverde con l'Atletico Madrid. A me è piaciuto moltissimo, mi sembra addirittura migliorato rispetto ai tempi della Juventus. Questo è un signor giocatore che adesso gioca all'ala destra, fa anche il centravanti, si inserisce in continuazione. Secondo me va bene per tutti gli allenatori del mondo. Sarebbe perfetto per l'Inter di quest'anno, su questo non c'è dubbio. A me l'Inter a centrocampo sta anche bene così, e penso che dovrebbe lavorare sugli esterni. Però se vuoi migliorare a centrocampo, Vidal è meglio di chiunque in questo momento. Anche di Eriksen. Eriksen è un grande giocatore con un grande futuro, ma deve arrivare, gli vuoi dare almeno un mese per capire dove si trova. Mentre Vidal il giorno dopo gioca. Non c'era un mese, Antò. Vidal gioca ed è utile, secondo me, a qualsiasi squadra di qualsiasi fascia in giro per l'Europa. Sono forse 5-6 squadre, ma poi se volete ci ragioniamo, quelle che possono metterlo in panchina a cuor leggero in giro per l'Europa. Ma nemmeno il Real Madrid. Ma infatti. Mio amico Filippo Galli, ti ricordi il doppio pivot che faceva Capello? Il mio amico Filippo Galli mi manda ora un WhatsApp: tiki taka, religione guardiolesca è il calcio, punto esclamativo. Un saluto a Filippo Galli. Ciao. Maurizio da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io, a me dispiace di intervenire dopo che ti ho provo a fare un sunto sul discorso dell'Atalanta. Sì. Allora, praticamente vorrei che qualcuno analizzasse le tre partite che l'Atalanta ha fatto contro Juve, Inter e Lazio e calcolare quanti punti l'Atalanta sono stati tolti. Punto a capo, solo quello, perché non ne parla mai nessuno. Tanto ieri sera guardando Tiki Taka, che non guardo quasi mai, mi sono visto delle reazioni di qualcuno dicendo che il fallo su Lautaro di Toloi poteva essere, non c'era, ma Lautaro il fallo l'ha subito dopo che deve essere espulso. Quindi voglio dire, cioè, è vero. Vabbè, noi... Non doveva neanche essere messa quella situazione, perché mentre situazione del genere vuol dire che l'Atalanta ha beneficiato, perché Lautaro su Toloi non aveva fatto fallo e quindi poteva cercare occasione da gol, ma Lautaro doveva essere espulso prima taglia e cuce dovrebbe essere fatto in modo appropriato. Maurizio, però la gente che guarda la televisione non capisce niente. Maurizio, allora noi abbiamo noi abbiamo detto perché lo pensa Cesari, lo penso anch'io, che era rigore e espulsione. Detto questo, gli episodi della partita li valutiamo tutti. Questo varrebbe per qualsiasi situazione, nel senso che se c'è un episodio al quinto minuto di un rigore non dato, è chiaro che dici, se dai quel rigore poi magari la palla gol per quegli altri non ci sarebbe stata. Questo vale per tutti, ovviamente. Che Lautaro dovesse essere espulso l'abbiamo detto perché era, come dice Marelli, un doxo, cioè una chiara occasione da gol. Poi c'era quell'altro episodio e li mostriamo tutti da una parte e dall'altra, credo che sia normale. Poi è ovvio che Lautaro, se fosse stato espulso lì, non si sarebbe trovato in quella situazione. Ma questo vale per qualsiasi episodio di una partita. Questo, cioè, gioco si chiama domino. È una cosa che succede al terzo minuto, se fosse andata diversamente magari quella al ventesimo non succedeva. Comunque, mozione accolta. Abbiamo Guido Vaciago e Roberto Rega vogliono aggiungere qualcosa sull'argomento. No, prima io volevo di... solo dire che anche se una squadra rimane in 10, non è detto che perda, e io questo... mi ricordo la Juventus senza Cristiano Ronaldo che ha vinto in Champions, mi ricordo la Lazio contro il Brescia in 10, la Lazio ha faticato moltissimo, ha fatto gol al 93esimo. Sì. Comunque, cioè, non è che è tutto matematico, no, se ti danno rigore non è detto che tu lo segni. No, comunque, l'Atalanta, ed è il motivo per il quale poi adesso alcuni interisti sono arrabbiati per le diverse reazioni di Gasperini, in alcune partite chiave con grandi squadre abbia avuto degli episodi non favorevoli, non fortunati, questo è indiscutibile. Detto questo, poi io chiedo sempre conferma a Graziano Cesari, io non vedo, e lo ribadisco, un vento che va in una direzione piuttosto che in un'altra. Nella stessa partita spesso si vedono errori, purtroppo, da una parte e dall'altra. Tant'è vero che qualcuno pensa addirittura alla compensazione. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di l'obiettivo, secondo me, dal punto di vista della comunicazione, è portare gli arbitri a avere più fiducia nel VAR. Prendiamoci il tempo che serve, diventiamo tutti più pazienti. Se non bastano 47 secondi per vedere la trattenuta, mettiamoci 2 minuti e 47 secondi, poi si recupera. Poi andiamo a cena dopo con calma. E il carboidrato poi sul tardi anche meglio. Ciao ragazzi, grazie Guido, grazie Roberto. Grazie a voi. Ciao. Alla prossima, ciao. Borsa, torniamo. Buongiorno, giornalista che ha appena proposto Desciglio centrale. Dico solo che Desciglio centrale l'abbiamo già visto, forse lui non se lo ricorda, ed è grave visto il lavoro che fa. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Lo sai, ho un'auto nuova, un nuovo contratto di telefonia, una nuova banca e presto farò una vacanza da sogno. Hai vinto la lotteria? No, mi sono associato a Confcommercio. Tanti servizi e condizioni vantaggiose per farmi risparmiare e rendere la mia impresa più competitiva. Vai su associati.confcommercio.it. Confcommercio, tua, sua, di tutti. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una Smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una Smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42, All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Ehi, Flowy, scarica le PEC e smistale ai destinatari corretti. Flowy, i documenti in uscita sono firmati digitalmente? Flowy, hai protetto le comunicazioni con dati sensibili? Flowy? Flowy è la soluzione DocFlow a cui non devi chiedere nulla. Classifica, smista e mette al sicuro automaticamente le PEC grazie all'intelligenza artificiale. Flowy, FLOWEE. Scopri di più su flowy.net. L'amore per la natura torna in edicola con il libro Verdeggiando, una raccolta di scritti e piccoli saggi di Pia Pera, un itinerario alla scoperta di libertà e spontaneità in una celebrazione del mondo vegetale e dell'intelligenza umana. Verdeggiando di Pia Pera, a cura di Lara Ricci, in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più. Imprenditore, liquidità fa rima con velocità, solo su credimi.com. Prendi il tuo smartphone e in 2 minuti richiedi un finanziamento fino a 2 milioni senza garanzie. Vai su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Tutti convocati. Ricordiamo un grande campione, oggi Pantani avrebbe avuto 50 anni. Io ti porto con me, come i giorni di pioggia, a due passi dal mare, solo e il sorriso un po' triste di quegli occhi in salita. È un ricordo sbiadito. Ora vai, vai, vai in fuga da tutti noi. Oh, mai, mai, mai e poi mai la pioggia ti fermerà. Beh, adesso la sfida è questa. Dato che cioè quella di non intristirci tutti quanti, però è bello con Pierluigi Pardo e aprendo il bar tour ricordare che in fondo le leggende, così come le persone cui vogliamo bene, non muoiono mai. Quindi facciamo gli auguri a Marco Pantani, che ieri ha compiuto 50 anni ed uso il presente. Marino Bartoletti, Leo Turrini, buongiorno. Fai bene a usare il presente, fai bene perché Marco è solidamente con noi. Guarda, ci sono momenti in cui forse sarebbe meglio preferire il silenzio alle parole. Non per nulla Francesco Pacini dice: pirata in fuga da tutti noi, in fuga da chi gli ha fatto del male, in fuga da chi ha offeso la sua sensibilità, chi ha messo a dura prova la sua fragilità. Teniamoci le parti buone. Per quanto mi riguarda, un'amicizia sincera, profonda, di un ragazzo della mia terra a cui ho voluto un mondo di bene, che ogni tanto vado a salutare, ci parliamo ancora. Teniamoci le emozioni enormi che ci ha dato in questi 50 anni. In questi 50 anni, durante i quali forse nessun altro campione è riuscito a darci quello che ci ha detto lui. Allora viva Marco, che vive sempre. Basta andare al Giro d'Italia per capire quanto sia vivo e quanto sia fra di noi. Grazie Marino, grazie Leo. Sai che Marino Bartoletti in questo momento è impegnato, quindi gli rubiamo del tempo prezioso, che sta lavorando, cioè sta facendo il nonno. Sto facendo due cose, guarda, perdonami, sto facendo due cose. Il nonno, e c'è Filippo qui davanti a me, che mi guarda stranito, poi gli spiegherò, poi Filippo ti racconto. Persone, d'altra parte sta giocando per fortuna con Fortnite, ma soprattutto Filippo ascolta solo Barisoni, no? Ascolta solo il pomeriggio Barisoni. Cioè lui è... Prendetemi come sono oggi, perché al di là delle malinconie superate col sorriso sul nostro pirata, io ho appena assistito alla conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo, dove è stato annunciato che alla terza giornata saranno presenti Albano e Romina, che canteranno una canzone di Malgioglio. Ora andate avanti e voi, per favore. Allora io vi dirò una cosa innanzitutto seria. Mi fa molto piacere che abbiamo ricordato Pantani, diciamolo, perché appartiene ad ognuno di noi. Marco umanamente ce l'abbiamo sulla coscienza un po' tutti, è inutile che andiamo a rimescolare il passato eccetera. Io ci ho scritto a suo tempo su prezzo un libro quello che è stato il trattamento riservato a quel ragazzo, lo considero una vergogna nazionale. E poi la finiamo qui, perché andremo su terreni che sono troppo scivolosi. Invece, in maniera molto meno seria, voglio dire che, essendo io in coda sulla Piero Cormano, qui tutta la gente in coda mi sta chiedendo una cosa. Posso dirla? Eh sì, perché? La lasciate dire. Voi avete visto, intravisto, la prima puntata, dato che Marina, la festa di Sanremo, eccetera, del cantante mascherato di Billy Carlucci, sì o no? Siate sinceri. Non l'ho vista, io e me ne vanno. L'ho intravista. Però aspettate un attimo. A un certo punto canta uno, non so, vestito da pinguino eccetera, mascherato, e uno dei giurati, non mi ricordo certo, non Malgioglio, dice: secondo me sotto la maschera c'è Pierluigi Pardo. Guardate che è successo veramente. Lo so, me l'hanno segnalato, in quel momento non lo stavo guardando. Però, nel segnalarmelo mi hanno anche detto, ma si capiva che non eri tu, perché eri troppo magro. Magari ero io, magari ero io, perché sai che lì. Fatemela raccontare tutta, perché Milly Carlucci ha detto in diretta TV davanti a milioni di telespettatori: ma quale Pardo, al massimo sarà Bartoletti sotto il pinguino. Questo per dirvi come siamo messi in questo paese. E io non ho finito, perché avete citato Malgioglio. Allora, se siete una trasmissione coraggiosa, unica, grazie a Genta e Pardo, vi inviterei, dopo la pausa, il traffico, eccetera, fatemi ascoltare un brano fondamentale della poetica di Malgioglio, che si intitola Pelame, versione spagnola del brano italiano Sbucciami. Ora, io su questo vorrei aprire un dibattito. Vale, Sbucciami. Chi sbuccerà questo scudetto? Ecco, Pardo, tu che eri sotto il pinguino, dalla Carluccio, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe essere, non posso dare indizi perché credo che la gara continui. Quindi la Juve ha già vinto lo scudetto, no? No, parla liberamente. No, non l'ha vinto. Pelame. Secondo me la notizia vera è che abbiamo un campionato. Abbiamo un campionato dove la Juve, secondo me, è ancora favorita. Ma insomma, secondo me è 50-30. Vogliamo giocare? 50-30-20. 50 Juve. Cosa siamo, 20? No, voi secondo me siete 30. Però forse 50-25-25, guarda. Però scusa Pardo, qui sei una signora 50-25-25. Devo fare una domanda, Pardo, mi senti? Sì, dica. Signora, sì, vuole sapere come ti hanno visto tornare su Dazon dopo la pausa? In quale forno a microonde ti sei affrontato? Perché avevi un colore metallizzato che ricordava il petito briatore. Dove diavolo sei stato? No, sono stato del campionato. Sono stato a Miami, ho preso il sole. Dov'è il conduttore in cui denuncio la totale inutilità? No, ma io rivendico la mia inutilità e me ne sto zitto. Mi azzittisco. Perché mi sto divertendo troppo. Bartoletti, eravamo a Viterba e Pardo era a Miami. Ora chiedetevi se c'è una giustizia. Che fine ha fatto l'ascensore sociale in questo paese? Se Pardo si abbronza a Miami e io quattro giorni in forse poi Miami è bellissima. Tra l'altro ho visto una partita dei Sixers che ovviamente hanno perso il supplementare, la migliore tradizione. Però detto questo, anche Viserba c'è sul perché. E comunque ero sembravo Graziano Cesari. A Roma Torino sembravo Graziano Cesari, questo è oggettivo. Marino, aiutami tu, per favore. Non so come parliamo aiutarmi. Di motori. Non parliamo di motori. No, a parte le il fatto Alpi che si sa, sono muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa di noi che qui sotto, lontano. Allora, più basso. Facciamo così: a parte la casa. Le prime trasferte della mia vita l'ho fatta a Viserba per Viserbella Sant'Arcangelo. Quindi portate rispetto alle località. E la seconda per Predappio Forlimpopoli. Ciò nonostante, ho preso la tessera da giornalista professionista. Detto che nella quarta serata di Sanremo si esibirà Johnny Dorelli, e mi metto in piedi e mi tolgo Filippo dalle ginocchia in questo momento, altro non vi dico di Sanremo se non che ho visto la Leotta in grandissima forma. Diletta. C'è anche Monica Bellucci, però ho sentito. Ci saranno anche Zucchero e Ultimo. Mentre si è aperto un dibattito tra i nostri amici. Colleghi, ascoltatori, abituali frequentatori di tutti i convocati, perché ho detto prima Filippo Galli che mi ha scritto WhatsApp, tiki taka è il calcio. Ora mi arriva un messaggio da Crosetti: il guardiolismo mi annoiava pure con Guardiola, figuratevi con gli altri, baci Cross. Allora, mentre lanciamo il traffico, sentiamo cosa ha scovato il maestro Veronato. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Posto che non siamo mica qui a pettinare le bambole, per fortuna abbiamo un direttore artistico occulto che ha altri gusti. Ho dovuto allontanare Filippo, l'ho educato prima i Beatles e adesso i Clash, e tu mi fai sentire. No, io, mica io. Questa, allora io voglio infilata nel jukebox, non l'ho mica infilato nel jukebox. No, no, lasciatemi dire una cosa, che Pelamè di Malgioglio è praticamente sullo stesso livello di My Way di Sinatra. Bartoletti, che è il profeta di Sanremo, lo sa benissimo. Tra l'altro io ho il dubbio che questa interpretazione di Pelamè sia Pardo lì al cantante mascherato che vestito da pinguino si propone questa interpretazione, perché diciamolo, uno che ha reso il campionato di calcio bello come Pardo, una volta lo commentava Brera in televisione, adesso lo commenta Vandana, può benissimo anche cantare Pelamè sotto mentite spoglie. Grazie Pardo di esistere. Pelamè, ma io sono più cantatorale, potrei Pelamè mucho. Dai, facciamoci un Guccini tutti insieme, dai, partiamo, scegliamo la canzone, una che sapevo tutti e tre. Ma come? Non starò più a cercare. Però se io avessi previsto tutto questo, da di causa e pretesto, però che canto da solo qua, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, della radio di Confindustria, cantiamo vecchi stornelli comunisti, ecco, e c'è Cruciani che ci guarda strano, e Ferronato abbassa anche quel mixer, e fa un po' arriva Barisoni, e mi manca la rima finale. Marino, hai un lavoro per me, per favore? Forse anche per me. Secondo me stai facendo il più bel lavoro del mondo. Vi aggiungo che l'altro giorno nel sito dedicato all'almanacco del Festival di Sanremo, che forse non sapete ma è uscito da un paio di mesi, e naturalmente parla di tutte le 69 edizioni del Festival, è un libro di storia prima che un libro di musica. No, diciamo pubblicato... una cosa, scusa, no, che questo libro è esaurittissimo. Certo, non c'è più. No, non si trova proprio, perché anche Conte è andato a cercare, per rilassarsi un attimo, l'allenatore dell'Inter, non il primo ministro, l'almanacco di Sanremo Bartoletti, e gli hanno detto non c'è, e lui ha detto ma come? Come quei giocatori che mi devi comprare Marotta non ci sono? È la stessa cosa. Allora, i librai stanno raschiando il barile. Non lo so Marino, fai delle ristampe, hai capito? E aggiungi in regalo il mini CD di Pelamè di Cristiano Malgioglio. No, ci aggiungo il regalo, un preziosissimo file audio che ho postato di Francescone Guccini, che come sai aborre il Festival di Sanremo perché va soltanto al Premio Tenco, ma quando davanti al caminetto di casa sua a Pavana canta Vola, colomba bianca vola, la R arriva tardi, dimmelo tu che tornerò. Beh, io posso dire che io ho avuto il piacere di cantare e suonare, suonava lui con Andrea Bocelli. Vabbè. Eschimo di Guccini una volta a casa. Mamma mia, è stato un momento straordinario. Forse in quel momento dovevo fare. Però era meglio, scusami Pardo, visto che tu sei ospite misterioso a Carlucci, se tu avessi fatto Amerigo, no? Per me America allora, ti hai di Roosevelt, hai capito, e di Paperino. Oppure Vallon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte. Pardo, ma sulle spalle le sue intelligenze non potevano sopportare. Marino, ma sei stato riammesso a casa? Corre la Pardo motiva. Sei stato riammesso a casa di Guccini a vedere le partite della Juve? Sì, sono stato riammesso perché dopo che uno dei primi esperimenti non venne benissimo e mi diceva che portavo sfiga perché la sua Juventus, pensato un po' Guccini che tifo per la Juventus, ma va bene, mi ha spiegato anche perché naturalmente, quello che ha scritto la locomotiva tifo per la Juventus, però va bene naturalmente perché Guccini può fare quello che vuole. Poi una licenza poetica. Ma sì, e mi ha detto, dato che ho scoperto che tutti parlavano male della Juventus, io mi sono messo dalla parte dei deboli, no? Poi ci sono tornato per vedere, dovevamo andare allo stadio in realtà lo scorso anno a vedere poi la Juventus, ma lui si era appena fatto male al bacino e abbiamo visto in casa Bologna-Juventus, per fortuna ha segnato Ronaldo, per fortuna non del Bologna, ha vinto la Juventus e quindi mi ha riammesso fra gli amici che lo possono frequentare durante le partite. D'altra parte se Turrini Devo dire che è un noto... anche da zone, anche da zone. Prossima telecronaca, sabato mi invento qualcosa, sabato faccio una citazione d'altra parte, se Turrini, che è un vecchio comunista emiliano, ti fa Inter, vale tutto. Vabbè, ma noi che dobbiamo fare? Andanovic ha parato questo calcio di rigore, siamo rimasti lì, c'era Pardo che raccontava questa partita. Io ero con mio fratello continuava a dire ma Pardo ha preso troppo sole a Miami, non capisce, qui che Gasperini ci sta schiacciando, è tutto, dico ma guarda, quello Pardo, l'ho capito, guarda, quello si capiva, guarda, si capiva bene. Pardo in realtà lavora lì con la Carlucci, lì, il cantante mascherato, quindi il calcio per lui è una roba, come dire, secondaria, marginale, hai capito? Comunque Leo, casa, con la Carlucci prima ci siamo giocati Zazzaroni che balla, adesso Pardo che canta. Ah, ma è una roba strepitosa, ragazzi. Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. Purtroppo qui o facciamo qualcuno un colpo di stato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Ragazzi, qui o facciamo un colpo di stato e chiudiamo tutte le porte, ci blindiamo qui e continuiamo a trasmettere a oltranza come in quel famoso film, oppure tra poco chiudiamo. Io voglio solo far notare a mio maestro Marino Bartoletti che i seguaci dell'ibraismo, nuova religione monoteista, sono in festa. Hanno rialzato la testa, sì. Sì. Io non cambio idea, naturalmente. Cioè, io sono felicissimo di aver sbagliato, se ho sbagliato, perché le somme si tirano alla fine. Però ho sempre detto che per, come dire, consolidare un rapporto sentimentale non basta prendere il Viagra ogni tanto. Non parlo per esperienza, naturalmente, perché non assumo sostanze chimiche. Ibrahimovic mi è sembrato veramente, come dire, una forzatura all'interno di un progetto, ammesso che esistesse il progetto, ma se tutto questo fa rinascere l'amore del Milan con il calcio e del calcio con i tifosi del Milan, ben venga anche Ibrahimovic, ci mancherebbe altro. Io so che tu eri già fra i ibrahimovisti convinti e quindi felici di darti ragione, però le somme le tiriamo alla fine, soprattutto quando venirà a cominciare il prossimo anno, in base a che cosa? Ancora Ibrahimovic? Sì, certo. Su Svezia che allarghe vedute, i fichi la mutualità. Questa è Gucci, che è opera buffa, credo, no? A proposito di Ibra, mi sa che ha mangiato un sacco di fichi Ibrahimovic, perché rimane uno dei più fighi di tutti, nel senso che veramente è l'eccezione, noi, conferma la cosa. Cioè, è giusto investire su un 38enne? No, in linea di massima no. Ma siamo 999 volte su 1000? No, nel caso di Ibra sì. A meno che non si chiami Zlatan Ibrahimovic o Kimi Raikkonen. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, vado sulla peo con mano. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato pure. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.